prima che te l'abbiamo conosciuto perché mi sto usando le cuffie con il team del nove, sto usando perfetto, ecco. E quindi sento un televisore che c'è in camera, siamo andati senza antenna, ovviamente, quindi diciamo, poi mi sono fatto la cuffia e ci mi toccata, questo lo conosco subito. Poi è entrato per entrata a Sassa di Teresi. Magari sì, direttore. No. Bisogna regolare con la bobina, perché ricordati quando c'è un minuto di tempo, mi telefono, scendiamo e la regoliamo. Stasera sono fatto il panattino di Giampaolo, così ho sistemato quel portone, scende quel portissimo per bene, adesso io devo risalvare il contadino, così io sono in gioco. Siamo il vice Vittorio, no, quello mi dice, ah, quanto meglio un cane morto. Sì, c'è il solito guasto, che non manca mai in frequenza, mai. Scusami, che mi passa, no? Cosa mi passa? No, ecco, gira gira, passa a me questo, non può essere. No, no, non ti passa. Meglio così, vuol dire che mi faccia una prima di già. Già paga tranquillamente 5 per zona. Sì, va bene. Faccio una persona bassa adesso. Due minuti e rientro, dai. Va bene, già sono qua, c'è problema. Bestioso. Ciao, aspetta, Ciao, Rosolino. Ciao Piantino. Sì, allora. Sto bene. Sì, già, aspetta, non fa una parte, rientro subito, un attimino. Cava, cava. Quindi, c'era anche Gigino, Gigino, va. Grazie, come già. Dio aiuto. Ti metto la frontata, non ti voglio far ascoltare. C'è anche con due ragazzi, poi. Ma io non passo. Ma non mi vedo, ma non passo. Ma non passo. Raga, passi di buoni vizi. Siamo di Giocriscesi. Ciao a tutti, buona serata. Salutami Stefano quando rientra alle. Fuggita, sarà. Magari sta mandicando a quest'ora. Che ore sono? Aspetta, parte, sono le 7. Non ce l'ho per fare la porta. E ora sono le 8, me lo dici? Sì, è 8, me lo dici, sì. C'è un bel tardino, esci, vado a prepararmi che me ne sto uscendo, cappa. Fatti una bella drumita. Ieri mi sono, sono via con le voci, mi è arrivato una cosa di panico e mi sono bucato le voci. Poi mi sono ripreso verso le 7:30, stavo benissimo. Ogni tanto poi si fa viva questa cosa. Ma ti sei cocco? No, mi sono in panico, non posso vedere. È stato spostato per essere stato più tanto davanti, ma che sei in panico. Cosa vuoi dare? Ciao, bravi. Ci sentiamo, buona serata, ciao ciao. Ciao, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Thank you. Yeah.